AVS Media Day. Come vorrei star con te, so che mi chiedi mi pesa, ma perché? AVS Media Day. So, ti pensa e non capisco cosa posso fare, a cosa lavorare. L'attivo accesa, gli altri fanno la spesa. Media Day.